Allora, oggi SGB proclama un presidio, i lavoratori, le lavoratrici dell'istituto scolastico IC6 di Bologna, denunciando un clima veramente pesante che si respira dentro quell'istituto. Noi ne parliamo con Francesco Bonfini di SGB. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ti chiedo di raccontarci appunto le ragioni che vi hanno portato a questa protesta. Sono lunghe perché noi siamo intervenuti a partire dalla fine dell'anno scolastico passato per alcune vertenze ordinarie, ma abbiamo riscontrato una forte chiusura dalla parte della dirigenza a qualsiasi tentativo di trovare una conciliazione, un accordo, come avviene genericamente con l'intervento del sindacato. A questo è seguito un numero inaudito, mai visto in nessuna scuola, credo d'Italia, di procedimenti disciplinari, e parliamo solo di quelli che seguiamo noi, perché i lavoratori hanno chiesto a noi di rappresentarli. Immaginiamo che ce ne siano anche altri di lavoratori che hanno chiesto ad altre organizzazioni sindacali di essere rappresentati. Tutti questi procedimenti disciplinari si presentavano per contestazioni assolutamente generiche, molto spesso non c'era proprio scritta qual era la mancanza che veniva contestata. A seguito degli accessi agli atti, di tutte le analisi che facevamo, ci presentavamo all'incontro, dimostravamo gli errori procedurali, l'insussistenza delle accuse, ma arrivava sempre lo stesso, la sanzione. La situazione è precipitata con l'arrivo delle elezioni RSU, perché il nostro delegato è stato eletto. Da quel momento abbiamo notato che c'è stato non solo un'impennata dei procedimenti contro di lui, ma un'attività investigativa continua sul suo operato. Siamo arrivati addirittura ad avere una contestazione che poi è stata ritirata in autotutela e sostituita con un'altra, in cui nelle accuse, per supportare le accuse, c'erano addirittura citati articoli del codice penale. Per chiarirci, se c'è una violazione del codice penale da parte di un dipendente pubblico, si va direttamente al licenziamento. Insomma, il nostro delegato ha dovuto prestare il suo servizio lavorativo e la sua attività sindacale in un clima insopportabile. Abbiamo appunto tentato tutte le procedure conciliative possibili con la dirigente, ma di fronte a una netta chiusura dobbiamo adesso passare alla mobilitazione fino a quando non otterremo i risultati che vogliamo. Tutto ciò quando è cominciato? Cioè, la domanda te la dico ancora meglio, sì. Attiene anche ai poteri ulteriori che la buona scuola ha conferito ai dirigenti scolastici? Ma in realtà no, nel senso che è vero che la buona scuola ha dato questi poteri, che sono quelli della chiamata diretta per quanto sia sospesa per quest'anno, quella del conferimento del bonus, ma in realtà non c'entrano. È vero anche che però il grande clamore che c'è stato intorno a questo aumento dei poteri dirigenti ha fatto sì che di fatto molti dirigenti si siano convinti ormai di poter disporre dentro le scuole come se fosse casa loro. Ecco, uno dei due articoli del codice penale che venivano utilizzati in una contestazione parlavano di violazione di domicilio. Capite bene che una scuola della Repubblica non è il domicilio della dirigente, no? Quindi insomma ci troviamo di fronte a quello che noi definiamo un abuso di potere, quindi al di fuori anche dei poteri ulteriori che la buona scuola ha dato ai dirigenti. Voi avete già interessato sia il Ministero che l'Ufficio Scolastico Regionale su questa situazione? Il Ministero prima delle elezioni, quando questa scuola ci ha negato i locali per un'assemblea sindacale fuori orario di servizio che avevamo richiesto, come in tutte le scuole, per presentare i candidati del programma elettorale alle elezioni. Tutte le scuole ci hanno dato i locali perché è normale, insomma, sono in campagna elettorale, e invece questa scuola ci ha detto che non aveva locali disponibili. Parliamo alle 17:30 del pomeriggio, quindi quando non ci sono lezioni. È una scuola che dà i suoi locali a tutti, organizzazioni interne al sistema scolastico, ma anche a privati, perché è in una posizione molto buona, vicino all'autostazione, eccetera. Per noi non c'erano i locali. Di quello noi avevamo interessato il Ministero, e già in quell'occasione avevamo detto, tra l'altro, in questa scuola c'è un numero assurdo di procedimenti disciplinari, quindi sarebbe il caso di fare un'ispezione. Ci risulta, ma non ufficialmente, che sulla questione assemblee ci sia stato un intervento da parte degli uffici scolastici territoriali, però così, ecco, non ufficialmente, mentre sulla questione dei disciplinari siamo ancora lì. siamo ancora. Dico solo al nostro delegato, nel giro di 10 giorni sono arrivate tre contestazioni nel giro di 10 giorni, che sono ancora tutte da svolgere. Oggi ci sarebbe la prima e noi però abbiamo deciso che di fronte a questo comportamento intimidatorio la risposta deve essere invece quella organizzata di mobilitazione sindacale. Voi quindi cosa chiedete? Noi chiediamo prima di tutto un'ispezione, perché abbiamo dei fortissimi dubbi sulle possibilità di questa dirigente di continuare a svolgere il proprio ruolo in questo istituto. In subordine, il ritiro delle contestazioni dei procedimenti disciplinari in corso e l'annullamento delle sanzioni che sono state già comminate, che noi abbiamo documentato, stiamo inviando tutta la documentazione agli uffici territoriali per dimostrare quanto fossero insussistenti. Io ti ringrazio e ovviamente seguiremo l'evolversi della situazione. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.